Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lui salì quella scalinata che dagli spogliatoi dello Stadio San Paolo porta sul rettangolo di gioco. Gli diedero un microfono per parlare e un pallone per palleggiare. Noi eravamo contenti, felici, come se qualcuno stesse venendo a liberarci. Salve, mi chiamo Marco Manna, ho 36 anni, sono un camionista, sono sposato con Francesca e due bambini maschi. Cuciufo per Enrique. Enrique Diego Armando Maradona, dos hombres, se le fue a los dos, maravilloso, está agrandado, está con toda la luz, se va Diego, otro más, sigue Maradona, busca el área, está el segundo, va a tirar, va a tirar, ¡gol! Non era ancora successo in quasi una stagione e mezza di programma e doveva succedere che prima o poi arrivasse una storia che parlasse di Diego Armando Maradona. Sono le 16:07, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui. In questo programma quello che facciamo è raccontare dei piccoli episodi di vita che sono accaduti a quelli che hanno voglia di raccontarli, sostanzialmente. Ascoltatori e no, se non ricordo male è successo che delle persone si siano avvicinate al programma mandandoci una storia, altre invece lo ascoltavano e lo hanno spedita di conseguenza. E dicevo, non era mai arrivata una storia su Maradona e prima o poi sarebbe dovuta arrivare, e infatti così è stato, l'ha scritta Marco nella fattispecie. E questi episodi di vita che riguardano, nella puntata di oggi in particolar modo, episodi pubblici di cui quasi tutti abbiamo memoria, perché più o meno tutti, anche quelli che non si interessano di calcio e anche quelli che non si interessano di sport in generale, sanno chi è Diego Armando Maradona, e moltissimi di quelli che invece si interessano ricordano quel giorno là, anche quelli che non sono tifosi napoletani, perché le foto, le immagini e le storie sono rimbalzate negli anni. Il giorno in cui Maradona sale quella scalinata e entra nel prato dello Stadio San Paolo di Napoli, che è gremito di gente, e lui fa pochissimo in realtà, fa due palleggi, lancia la palla in aria e lì comincia la sua storia e la storia di Napoli, una parte della storia di Napoli, non solo del Napoli calcio. Marco dice una cosa che mi ha molto colpito nel suo racconto, che è quello che con cui io ho aperto, no, nell'intro iniziale. Dice, era come se qualcuno stesse venendo a liberarci. Questa è una frase che può suonare probabilmente stonata per moltissime persone che non amano lo sport o non amano l'esagerazione per quanto riguarda il culto della persona, ad esempio. Però c'è qualcosa nella sua storia, nel modo in cui lo racconta, che ti fa capire quanto queste parole siano sincere. Più tardi vorrei riuscire a parlarne anche, oltre che con Marco, nella seconda parte del programma, dopo la borsa, con un giornalista sportivo, che non è solo un giornalista sportivo, è anche molto altro, che è Federico Buffa. Federico Buffa ha curato per Sky una sorta di documentario, però più che documentario intervista è una forma di storytelling televisivo su Diego Armando Maradona, e dovrebbe essere più tardi in diretta con noi. 349-238-6666. Oggi però nella fattispecie vorrei parlare, grazie alla storia di Marco e a quel giorno lì, la storia di Maradona e di molti napoletani che erano in quel posto, nello stadio intendo dire, vorrei riuscire a parlare di quel momento in cui tutti noi abbiamo vissuto una sorta di riscatto, perché questo è quello di cui parla effettivamente Marco in questa puntata. Una forma di riscatto sociale o personale, qualunque sia stato. 349-238-6666. Se avete un profilo Facebook, noi abbiamo una pagina, cliccate mi piace e ci accedete liberamente. Voi siete qui, Radio 24. Bepo ad esempio mi scrive: il mio riscatto è stato quando ho vinto la vertenza sindacale e ho riottenuto il mio lavoro. Lì mi sono sentito molto indifeso e finalmente c'era qualcuno che mi aveva aiutato a ottenere, o meglio riottenere, il mio lavoro. E poi Mario appunto scrive, guardando la foto che abbiamo pubblicato su Facebook, che racconta esattamente quello. È una foto bellissima che non avevo mai visto prima di cercarla questa mattina. È una foto, si vede di spalle Diego Maradona che sale le scale e un nugolo di fotografi che lo fotografa. La cosa interessante è l'espressione che ha Maradona in questa foto, perché è di tre quarti e sembra stranito. C'è un altro ascoltatore che mi scrive, che non è chiaramente

Ah, ho iniziato a fare garzone da bar, garzone d'officina, poi ho lavorato in un'impresa di pulizia e poi da là, man mano, ho fatto quello per un periodo l'imprenditore, poi non è andato tanto bene. Che impresa avevi intrapreso? Prima lavoravo con una ditta di spedizioni in Romania, poi avevo aperto un negozio tutto mio là in Romania e da 2 anni sono ritornato poi in Italia. Senti, quindi adesso fai il camionista, giusto, il trasportatore? Sì, il trasportatore, sì. Quindi devi prendere una patente apposta, immagino, guidi camion grandi? Sì, vabbè, le solite cose, veramente specifiche e tutte. Comunque, pure questa parte del camionista comunque ti porta a fare delle riflessioni, perché giri per l'Italia e ti rendi conto che magari, essendo dal sud, su di te si dicono tante cose che alla fine non corrispondono mai al vero. Cioè, guarda, i luoghi comuni sono chiaramente su qualsiasi luogo ed è facilissimo farli da tutte le parti. Senti Marco, ti ringrazio molto, devo mandare la borsa, però ti ringrazio per la chiacchierata e soprattutto per la storia. Ok, grazie ancora. Grazie a tutti voi. Ciao, ciao Marco, ciao, grazie mille. 349-238-6666, qualcuno mi scrive: è comprensibile il senso di riscatto, lo fu anche Owens nel periodo nazista e lo fu il concerto di Bob Marley in Africa. Marco ha i capelli completamente rasati e un bel barbone nero nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. È in casa, immagino, in casa... Sembra più la casa che potrebbero avere i nostri genitori o i nostri nonni, non lo so, poi magari è in casa sua, perché ha una tappezzeria di fondo, di quelle un po' zigrinate, che si vedono solo in alcune case. Ha su una camicia e un maglione con la Z blu e ha la faccia più di un rugbista che di un camionista. Riscatto, sostantivo maschile. Liberazione concessa o conseguita mediante il pagamento di un prezzo imposto. In diritto, liberazione da un obbligo assunto in precedenza. Estensivo, nell'uso amministrativo, il recupero ai fini del trattamento pensionistico di periodi in cui non sono stati corrisposti i contributi versando una somma in grado di coprirli. Etimo, derivato di riscattare. Data, secolo XIV. Si parla di riscatto oggi alle 16.34 qui a Voi Siete Qui, questa è Radio 24. Lo facciamo grazie al racconto di Marco, che ci ha descritto quella giornata, la giornata del luglio del 1984, in cui Diego Armando Maradona viene presentato allo Stadio San Paolo di Napoli come un nuovo giocatore del Napoli Calcio, e lui parla di questo senso di riscatto che tutta Napoli e lui addirittura dice tutto il meridione ebbe grazie a quest'uomo. 349-238-6666. Io adoro questi nozionistici. Franco mi scrive: Dirceu segnò uno dei due gol presi da Zoff dalla lunga distanza in Italia-Brasile nel Mondiale Argentina del 78. Visto che avevamo tutta la puntata dedicata a Diego Armando Maradona e alla storia di Marco, io, come delle volte succede in questi casi, preferisco che a parlare di un argomento sia qualcuno che ne sa molto più di me. Era un venerdì, 1968, Buenos Aires, Villa Fiorito, una di quelle tremende baraccopoli che ci sono dappertutto a Buenos Aires. Shogo, che è il ragazzo della storia, corre perché vuole raccontare al suo amico che cosa è successo. Gli Argentinos Juniors, una delle principali squadre di Buenos Aires, con uno straordinario vivaio, lo ha preso, ma ha raccontato agli allenatori dell'Argentinos Juniors che a casa sua, alla Villa, c'è uno più forte di lui. Si dicono queste cose, si dicono tante volte. Gli allenatori però per una volta ci hanno creduto. Vabbè, portacelo. Eh già, portacelo. Bisogna andare all'angolo tra la calle Mario Bravo e a Samor e chiedere alla famiglia Maradona se fa venire Diego. Sì, perché Diego dice subito: no sé, tengo che preguntarle a mi viejo. Perché in Argentina non c'è il papà, c'è il viejo e non c'è la mamma, c'è la vieja. Federico Buffa è più che un giornalista sportivo, per quelli che lo conoscono non c'è bisogno di dire molto altro. E qualche tempo fa è nato in onda su Sky un documentario, più che un documentario era veramente una forma di narrazione, di storytelling, su Diego Armando Maradona, che si chiamava Un Diez de Cuero Blanco. L'ho sicuramente pronunciato male, quindi chiedo la correzione direttamente a lui. Pronto Federico, buongiorno. Buongiorno, ciao. Grazie per questo invito. Figurati, grazie a te per esserci. Non so se sei riuscito a sentire le chiacchiere o la storia che ho fatto con Marco, che è l'autore. No, mi hanno messo in collegamento quando eravamo al volto rasato e la grande barba nera. E la barba nera, e la faccia da rugbista. Sono entrato lì purtroppo. Però in sostanza è come ti avevo raccontato velocemente al telefono, no? È la storia di come, è la sensazione che lui racconta di come quest'uomo stesse andando a liberarli. Che senso può avere questa frase e questa sensazione secondo te, Federico? Sai che anch'io mi misi a guardare continuativamente quella serie di palleggi nel centro del San Paolo, di questo pallone scagliato con rabbia, con teatralità, con veemenza lontano. In fondo Diego veniva dal Barcellona, cioè da una delle grandi squadre del firmamento internazionale. Mm-hmm. Come fecero a portarlo a Napoli? Fecero a portarlo a Napoli perché, come spesso succede, un giocatore di quel tipo lì non è così facile da addomesticare. Mentre Cruyff è ancora lì, mm-hmm, e disse subito la frase: io vado al Barcellona, non vado dai fascisti di Franco, ovvero sia il Real Madrid. Certo, dagli spagnoli. Dagli spagnoli, certo. E mentre Maradona ha questo tipo di atteggiamento così facilmente disponibile, non ce l'ha. Deve abbracciarla una causa per essere quello che poi può diventare. Non te lo dice prima. Ma l'idea di andare a giocare per una squadra storicamente messa in una zona d'Italia dove il potere forte opprimeva, lo ha fatto dal punto di vista politico e lo ha fatto dal punto di vista sportivo, e invece questo sì che lo attizzava. Perché probabilmente era andato a Barcellona anche per questo, perché poi comunque i catalani sono opposti a Madrid, però si è accorto che in realtà i catalani sono ricchissimi, sono insieme agli olandesi i più grandi mercanti di sempre della storia d'Europa, mm-hmm, che il club ha tante regole interne. Lui col suo clan dopo un po' si trovò male. Ricordo che andava a vedere una sua partita al Trofeo Gamperk iniziale, 10 di sera, il pubblico impazziva per lui perché ovviamente faceva delle cose senza senso, però probabilmente lui non impazziva per loro. Lui ha bisogno invece di stare in un contesto dove è amato, dove è riverito per quello che è stato e probabilmente è ancora il più grande giocatore di sempre. E Napoli da questo punto di vista è proprio iperaccogliente e perfetta. Senti, non entrando davvero nello specifico, che mi sembra meno interessante del è il più grande, è il migliore, sì, più forte, ci, veramente pienamente, ci interessa poco. Vorrei invece, mi ha stupito un po' come i messaggi che siano arrivati in diretta abbiano denotato come questo personaggio divide completamente, ma divide quasi da un punto di vista proprio ideologico. Cioè sono arrivati un sacco di messaggi molto giudicanti nei confronti di Napoli, del calcio e della figura di Maradona. E puoi immaginare cosa intendo quando dico molto giudicanti, no? Per quale motivo quest'uomo ti spacca a metà? O lo ami o lo detesti al punto da odiare tutti quelli che lo amano? Perché si schiera. Perché il suo è stato il 10 più pesante, di cuoio bianco, era un riferimento alla sua infanzia, ovvero sia alla maglia del suo idolo, perché anche Maradona ha avuto un idolo, che in questo caso era un giocatore dell'Independiente, Boccini, e l'Independiente aveva sulle maglie i numeri col cuoio bianco. Ah, ok, perché un 10 di cuoio bianco significa un 10 di cuoio bianco, giusto? Di cuoio bianco, sì, okay. Che era proprio il suo sogno, poter avere la maglia del suo giocatore preferito. E perché è un giocatore che, prima di essere un giocatore, è un uomo, e quindi un uomo schierato. Il 10 l'ha portato politicamente, l'ha sempre dichiarato, come ero permesso di dire, un 10 è portato contro i mascalzoni del mondo, solo che i mascalzoni decide lui, e non tutti hanno voglia di farsi chiamare mascalzoni. Il suo modo di essere 10, che è la maglia più difficile storicamente da portare nel calcio, è un modo controverso, perché poi c'è il giocatore, e quello però termina il 90° della partita, e poi c'è l'uomo, e l'uomo invece è tutto il resto del tempo. E quei tipi di personalità, con quella bipolarità, con quella facilità verso l'eccesso, sono discutibili. Oggi si discute tanto, non so, Mario Balotelli, che ovviamente non è neanche vagamente Diego Armando Maradona come calciatore, però è un giocatore che fuori dal campo impatta, vuole attenzione, si nutre di attenzione. Diego è sempre stato padrone, cioè proprio ovunque sia andato, una personalità magnetica. Però c'è anche un particolare che viene, secondo me, sottolineato poco. Diego era contro, o è contro, tutti quelli con cui ritiene ci sia da essere contro, contro gli sfruttatori. Forse ricorderete, per esempio, quando lui, allorché ci fu un revanchismo dittatoriale in Argentina, disse a nome, credo, del suo popolo: guardate che non vi basta mettervi del nero sotto gli occhi coi turaccioli per farci paura ancora. Quella parte della storia argentina, quella pagina è stata girata. Era ovviamente il padrone dell'Argentina in quel momento, poteva permettersi, però era un'affermazione forte. Non sempre i calciatori sono andati contro chi li rappresentava politicamente, non ne hanno mai avuto interesse. In fondo il calcio fa parte del business statale, spesso la politica l'ha usato per i propri scopi. E scusa Federico, invece voglio farti una domanda che va esattamente all'opposto, ed è: non è che ogni tanto, soprattutto con lo sport e coi personaggi sportivi, il giornalismo, ma guarda, no, io non sono giornalista ma mi ci metto perché mi piace raccontare storie, non è che ogni tanto esageriamo col immaginare, figurare, costruire personaggi che poi, detto malamente, tirano dei calci a un pallone? Sì, è verissimo questo, l'iperbole nello sport è costante e il calcio, essendo lo sport più seguito del mondo, genera iperboli ancora più sovradimensionate. Però è anche altrettanto vero che alla fine non si può sottovalutarlo il fenomeno del calcio. È vero che sono calci a un pallone, è vero che tutto quello che diciamo ha una sua logica, però è anche altrettanto vero che è una delle attività umane che muovono di più, c'è poco da fare. E poi guarda, poi è anche vero che noi siamo in un paese in cui si dice sia stato salvato dalla guerra civile grazie a Gino Bartali che vinceva il Tour de France, quindi in realtà, ha poco senso dire il contrario. Il calcio può compattare i paesi, in tanti luoghi della terra hanno solo quello, cioè mi è capitato di stare in luoghi sperduti del mondo e vedere in Birmania, per esempio, col satellite, che ha cambiato tutto ovviamente, perché comunque un satellite, basta che qualcuno nel paese abbia qualche soldo, lo puoi mettere su, e tutto il paese che si guarda a migliaia di chilometri di distanza la partita, vedono e sanno tutto. Non dobbiamo sempre vedere il mondo dal nostro punto più o meno pensiamo a tutti quelli che per vedersi una partita di calcio in Asia o in Africa o ovunque farebbero qualsiasi cosa. Tra l'altro Federico Buffa, tu sei soprattutto un commentatore del basket americano, nella fattispecie, che è forse uno degli sport più ricchi al mondo, dove girano un sacco di soldi e dove in realtà le storie continuano, quello è il luogo in cui nascono le storie, gli Stati Uniti, e riescono a raccontare probabilmente meglio di tutte, e nonostante tutto, nonostante siano ricchissimi, ce ne siano tanti soldi, continuano a raccontarsi storie magnifiche di basket e di umanità. Perché comunque, come per nel caso di Diego, non vengono, la maggior parte di questi campioni vengono da associazioni, da situazioni socialmente disagiate. Adesso Diego ha avuto una bellissima famiglia, un padre, una madre e dei fratelli con cui è sempre stato molto legato, mentre la maggior parte di questi ragazzi afroamericani vengono da famiglie slabbrate, perché la famiglia afroamericana è tradizionalmente slabbrata, e non puoi non portarti dietro chi sei stato, chi ti ha insegnato, cosa hai visto, se sei cresciuto per strada e molti dei tuoi amici sono morti davanti a te in una pozza di sangue perché qualcuno gli ha sparato per motivi più o meno futili, questa durezza te la porterai anche quando giochi, quel senso di controllo del territorio te la porti anche quando giochi. In fondo Diego non è cresciuto in una situazione così disagiata, al di là della miseria della casa, dove pioveva dentro, dove si mangiava diciamo in maniera discontinua, però è venuto fuori geneticamente, anche perché era una meravigliosa mescola di sangue, cioè c'è dentro la nonna india e si vede nel tratto fisico che ha, un po' in parte italiana, un po' c'è anche croato, cioè gli argentini sono all'interno del mondo sudamericano una razza ancora particolare, lui è venuto fuori così e poi fuori dal campo essere il numero uno al mondo è un pochino scomodo se hai un certo tipo di personalità, e lui se n'è andato, nel senso che ha lasciato il controllo di se stesso che aveva in campo, però come ti dicevo prima non c'è un suo compagno di squadra che ti può dire Maradona, che poteva fare con i piedi quello che io non riesco a fare con le mani, non ha mai deriso un suo compagno di squadra per quello che non sapeva fare, lo ha sempre incoraggiato, tante volte arrivava all'allenamento a Napoli ed era palesemente non in condizione di allenarsi, certo. C'era il fango, lui si metteva a fare rovesciate in mezzo al campo mentre i compagni correvano, ma nessun compagno di squadra è mai andato all'allenatore a dire guardate che questo qua non può allenarsi così, la domenica si faceva vincere, soprattutto li aveva tutti insieme, li teneva allacciati, certo. Legati al suo saper suonare una musica che ti portava a giocare con lui e per lui, ha vinto non con le squadre più forti, paradossalmente è andato meglio con le squadre meno forti, più deboli. Con quelle forti, certo. È arrivato un messaggio, poi ti saluto Federico, che dice: il racconto di Buffa è da brividi per chi conosce bene non solo Maradona ma tutta l'Argentina, lo trovate online, il racconto di Federico Buffa su Diego Armando Maradona. Federico, grazie mille per la chiacchiera. Piacere, arrivederci. A presto, ciao, grazie. Io ringrazio lui, ringrazio soprattutto Marco che ha scritto la puntata di oggi, ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Ina. La storia di oggi era di Marco e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Gilberto, sono di Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Quella di domani è la mia storia e parla di tarocchi. Questa è la mia storia e io sono qui.